Oh, ricordati, sono venuto qui per vincere e questo anno vinciamo tutto. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Nishi non crossa, adesso sì, nel mucchio, palla all'indietro, sbuca il matador anche. De Bruyne prova il destro a giro, rete, rete, ancora lui, incredibile, Kevin De Bruyne, passa San Siti in vantaggio. Abbiamo dato tutto, soprattutto oggi, con le possibilità che avevamo, con le forze che avevamo. Eravamo molto delusi dopo il primo partito, perché secondo me avevamo la possibilità di vincere questa partita, e sicuramente che sarà una partita diversa, no? La partita di ritorno 2-2, un score buono per il City, no? Beautiful. Something close to genius. He's turned the tie around all by himself. Another Champions League hat-trick for the head of the Real Madrid glitterati, Cristiano Ronaldo. Stiamo dicendo di tanto tempo che è il numero uno. E lui lo sta dimostrando tutte le volte. Però bueno, questo non è nuovo per noi, e quello che ha fatto ancora oggi, mettere tre gol, ha fatto la differenza, però con tutta la squadra, no? Lui fa la differenza, però quello che abbiamo fatto, quello che hanno fatto tutti i giocatori, io penso che soprattutto è enorme da parte di tutti. Così in Champions League ieri sera, maledizione Ibrahimovic fuori di nuovo, e invece Zidane viene salvato da un mostruoso Cristiano Ronaldo. Siamo sempre a Vinitaly anche oggi, almeno io, Giorgio De Luca, Filippo Aureggi, il nostro autore Filippo Aureggi, Davide Cioccia, tutta la squadra di Radio 24. Pierluigi Pardo è sulla via di Madrid. Ciao Pier. Sono proprio a Madrid, come va? Molto bene, qui se magna, ti dico, qui se magna, si beve acqua liscia, acqua liscia si beve, acqua liscia, secondo acqua, giorno, giuro ci sono i testimoni qua fuori dallo stand di Radio 24, non c'è più fisico, Pierino. Intanto parleremo ovviamente anche della notizia di questi giorni, esonero di Mihajlovic, arrivo di Brocchi oggi alle 14, anzi adesso viene presentato Christian Brocchi, poi vi faremo sentire anche le sue prime battute. Intanto c'è questa notizia abbastanza incredibile che arriva dalla VAD, l'Organizzazione Mondiale Antidoping, che ha deciso di amnistiare i russi al Meldonium. Se amnistia fino al 1 marzo, sappiamo che questo farmaco è stato introdotto nella lista delle sostanze proibite alla fine dell'anno. Ebbene, 43 atleti russi, tra cui Maria Sharapova, positivi, però amnistia fino al 1 marzo per meno di un microgrammo. E quindi mossa abbastanza inspiegabile. Abbiamo Brocchi, mi dice Giorgio De Luca. Ah, sentiamolo subito. Ma intanto la prima cosa che mi viene da dire è portare comunque una cultura del lavoro, proseguire la cultura del lavoro che questo gruppo sicuramente ha, perché ha fatto un ottimo percorso in questa stagione da questo punto di vista. Ho avuto più volte modo di vedere loro all'opera, ho sempre trovato e visto un gruppo di ragazzi che aveva voglia di lavorare, aveva voglia di impegnarsi durante la settimana, e questa cosa sicuramente va data merito a Sinise e al suo staff per tutto il lavoro che ha fatto da questo punto di vista. Così Christian Brocchi. Resta misterioso il fatto che misteriosi i motivi per cui Mihajlovic sia stato sollevato dall'incarico. Misteriosi i motivi, dai. No. Poi allora, non gli andava giù. No, no, lo so che è il mio punto di vista impopolare. Io penso che Mihajlovic sia un bravo allenatore. Un bravo allenatore che ha fatto cose interessanti alla Samp. Dopo questa stagione rimane il dubbio, ma gli auguro ovviamente di risolverlo a suo favore, che possa essere un allenatore solo di temperamento, quindi solo per squadre, sì, diciamo, medie. Temperamento non gli manca sicuramente, quello che ha fatto alla Sampdoria è importantissimo. E non ha fatto bene, però. Non è solo colpa sua. La squadra non è da scudetto, non è probabilmente neanche la Champions League, però secondo me lui è il primo a sapere che poteva fare di più e non è soddisfatto di questa stagione. Per cui io penso che Berlusconi abbia questo dubbio che Brocchi possa essere uno illuminato, anche se sicuramente il cognome non lo aiuta e la carriera da calciatore, che è una carriera importante. Credi che Berlusconi ha voluto anticipare, voleva anticipare il futuro? Per provare, per togliersi secondo me un capriccio. La verità è che adesso Brocchi, 6 partite, 7 con la finale di Coppa Italia, si gioca un bel pezzo della sua carriera. Questa è la verità. Ripeto, non è che Mihajlovic... è sempre brutto quando l'allenatore viene mandato via. E sicuramente Mihajlovic non ha fatto peggio di Inzaghi, anzi probabilmente ha fatto anche un pochino meglio di Inzaghi. Quindi è chiaro che il problema non è Mihajlovic. Il problema mio non è Mihajlovic, non era Inzaghi, non era Seedorf, non era Allegri. Allegri andò via dal Milan e in un'altra squadra ha vinto. Quindi il problema del Milan è sicuramente nella qualità di certi investimenti, anche se secondo me il Milan comunque una base quest'anno l'ha costruita in estate, perché secondo me ha 4-5 giocatori da cui ripartire. Pierluigi, poi ti chiedo e chiedo anche agli ascoltatori, ovviamente 800 24 00 24, numero verde messaggi 349 238 6666, poi proveremo anche a capire se Brocchi non rischia di fare la stessa fine di Filippo Inzaghi, cioè di bruciarsi le penne in queste pochissime partite. Intanto mi arrivano un sacco di messaggi che mi spernacchiano, di ascoltatori che mi spernacchiano perché facevo il tifo. Parteggiavo per il Paris Saint-Germain perché mi sarebbe piaciuto vedere Zlatan Ibrahimovic in finale a Milano e magari alzare quella coppa per lui maledetta. Sarà per un'altra volta o probabilmente per mai. Ci fermiamo per il traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Dato un po' sul mal di pancia di Ibrahimovic all'inizio della settimana, è vero che hai mal di pancia? Mi fa male pancia quando vedo te. Sono stato 3 anni in Italia, ho vinto 6 anni in fila e non so se... Io non ricordo bene, io non ho dei difetti ogni tanto di memoria. Però questa ti ricordi, C'è una grande possibilità che passiamo, però manca ancora una partita e bisogna stare attenti. Le cose stanno andando bene, sono contento, la squadra sta giocando bene e se possiamo arrivare al fine va bene, però non è facile, più arrivi avanti in Champions più difficile è. Vediamo. Ibra, mi arrivano le pernacchie. Ibrahimovic e quella coppa non si sposeranno mai. Pierluigi Pardo collegato con noi da Madrid. Ma sei già con Filippo Maria Ricci, Piera? Sì, è qui a 4 metri da me. A 4 metri. Anzi, potremmo verificare come si chiama l'effetto Larson. Se io entro nella sua comunicazione. Ciao, allora, Filippo. Pronto? Pronto, prova? Ci siamo. È di grigio vestito, maglione grigio con pantalone grigio però diverso che stacca e scarpa color amaranto. Grande classe. Con una polo, però sono felice perché sai, ieri sono venuto con la giacca che sembravo quello venuto a Verona, quello venuto dice Verona fa freddo e Verona è la giacca di lana, è un po' ridicolo. 30 gradi c'è. Oggi ci sta, ho fatto la scelta giusta. Ragazzi, allora su Ibra c'è Ibra nella polvere, Cristiano Ronaldo nell'alto dei cieli calcistici. Perché sì. Guarda, la differenza è semplice, per me. Uno vince sempre la Liga, l'altro è un uomo d'Europa, perché Cristiano ha vinto solo una Liga su 7 qua col Madrid e Ibra le vince tutte, però in compenso Ronaldo in Europa è numero uno, anche se ha vinto alla fine solo 2 Champions. Però Ibra quanto ha fatto? Mi sembra 8 eliminazioni su 9 ai quarti di finale, sembra un bel numero, no? Sì, c'è anche da dire che Ibra ha giocato in squadre realmente dominatrici in Europa, secondo me solo un anno, che è l'anno di Barcellona. La verità, ragazzi, purtroppo che noi gli spagnoli hanno dominato, c'è stata la fase del Manchester United, cioè le storie sono anche queste. Poi c'è sempre la casualità, cioè Cristiano Ronaldo sbaglia il rigore, io voglio quasi bene. No, come mi senti più? Dai, adesso questa è veramente un'umiliazione. Sto a 5 metri da Rizzi, se sentite mi sento nella posizione giusta. Scusa, se vai nel modo sbagliato. Guarda come fa il figo, Filippo, portalo dove il telefono riceve. Se n'è andato, è andato a fare che sto a 1 metro da Rizzi. Se adesso il mio non prende, il tuo non prende, fatto causa a tutti. Si è arrivato a Plaza Castiglia, sta così camminando. A Madrid avete una connessione che fa ridere, ditelo. Si piace questo attacco, subito reagito. No, stavo dicendo che secondo me, poi c'è anche la casualità, Cristiano Ronaldo, che chiaramente è un fenomeno, però è uno che sbaglia il rigore nella finale di Champions League a Mosca, Manchester United Chelsea, quindi fa una cosa tra virgolette da perdente, da giocatore non freddo, e poi comunque vince la coppa perché Terry scivola, cioè c'è anche questo elemento. Ibra non ha mai giocato, secondo me, tranne che in quella stagione, in squadre realmente dominatrici d'Europa. Poi ci saranno anche le sue colpe, non è che voglio assolverlo. Anche in queste due partite il Paris Saint-Germain se la poteva giocare meglio e lui se la poteva giocare meglio. Beh, ma sai, cioè, secondo me Paris Saint-Germain è più forte del Manchester City, sculacciato anche dalla Juventus, che peraltro tornerà a mordersi le mani e a rosicchiarsi le braccia fino ai gomiti. Il Manchester City è una squadra che era, come dire, eliminabile dal Paris Saint-Germain, magari da un Paris Saint-Germain al completo, ed era eliminabile dal vecchio Zlatan. Sì, diciamo che a Zlatan gli è andata male che non c'erano il centrocampo, questo sicuramente. Sì. Però io sono d'accordo con te, dai, questo City è un City comunque allo sbando, Pellegrini in difficoltà, non lo so, nei tanti errori che hanno condizionato questa doppia sfida, Ibra ci mette del suo, insomma, doveva metterci le mani su questa sfida come ha fatto ieri Ronaldo contro una squadra mediocre, perché il Wolfsburg è una squadra mediocre, però Ronaldo ha fatto il suo, ha fatto 3 gol, se non era per lui, se non è il Real Madrid. E ha salvato Zizou, ha salvato Zidane. Sì, ha salvato Zizou, già l'aveva salvato secondo me con la Roma, perché io dico, senza Ronaldo quella doppia partita con la Roma sarebbe stata diversa. Ieri l'ha proprio salvato in maniera clamorosa, insomma, la felicità di Zizou mi sembra sia tutta nei suoi pantaloni squarciati nella corsa. Avete visto quell'immagine? Ecco, quello dice tutto. Tanto vedo oltre il vetro mister Alberto Malesani, che con cui tra poco chiacchiereremo di calcio e di vino e di allenatori. Invece, ragazzi, ditemi della partita di stasera, Barcellona, che qualcosa rischia, che qualcosa rischia con una squadra abbastanza anticalcistica, perdonatemi, come l'Atletico Madrid. Ci ricorda invece in Spagna gode di una sorta di immunità, secondo me giusta, secondo me giusta, nel senso che sai che gli spagnoli sono fissati con non una c'è solo un idea. Calcio, esatto, gli spagnoli però sono fissati con quell'idea di calcio, se la prendevano con Capello per il doppio pivote, cioè tra le due uomini a protezione del centrocampo, quando giocava tipo 4-2-3-1 ci giocavano tutti, però se la prendevano, quindi hanno un po' questo stereotipo del calcio sempre offensivo. In realtà l'Atletico Madrid è l'antitesi, è la squadra più italiana che c'è in Spagna, e però godono dell'immunità. Esce, sì, assoluta immunità, anche di Segurola. E stasera faranno quello che fanno sempre, cioè nonostante debbano attaccare, dove difenderanno, saranno chiusi e cercheranno di trovare la giocata. Tra l'altro, 2 anni fa eravamo qui per Atletico Madrid-Barcellona, se c'entra la cabala c'è anche questo elemento, anche se poi Luis Enrique 7-0, 7 partite senza vittorie contro Simeone da quando ha preso il Barcellona, cioè il Barcellona sembra la squadra che mette più in difficoltà l'Atletico Madrid. Poi c'è anche una variabile psicologica, Ricci conoscerà sicuramente meglio di me, perché comunque adesso il Barça improvvisamente rischia di giocarsi tutto. Cioè, il campionato ormai è più 3, è una squadra che ha fatto 39 risultati utili consecutivi e che ha perso 2 delle ultime 3 partite, con Messi che non segna da 362 minuti, che è la peggiore striscia di minuti negli ultimi 5 anni. Tra l'altro aspetta il gol numero 500, no? Sì, esatto. Sempre il 500, il mezzo sacco, che l'altro giorno me l'ho sbagliato, ti ricordi quella pessima figura che ho fatto con il mio romanesco ormai annacquato. 5 sacchi. Sacco no, mezzo della metà di 1000, scusa, no? 500. Però detto questo, la piotta 5 piotta anche, vabbè, tornando al... c'è da dire una cosa, l'Atletico Madrid nelle ultime tre partite con Barcellona è sempre andato in vantaggio e poi ha sempre perso, però ha sempre perso per un gol, e stasera ci sarà un'atmosfera incredibile. Io il mio unico timore in chiave atletica è che l'atmosfera sia troppo calda, perché ieri di nuovo Simeone ha parlato di contatto, sarà una partita di contatto, ci manca solo quello. In campionato in gennaio gli hanno espulsi due, l'altro giorno gli hanno espulso uno. E tocca Rizzoli, tra le altre cose, non so se abbiamo parlato ancora di questo argomento, non so, io, voi lo conoscete meglio di me, non so se l'arbitro giusto, l'Atletico picchierà, perché appunto è stata invocata la partita di contatto, vediamo come reagiscono quelli del Barcellona, anche gente che sa fare abbastanza scena, e io ho solo paura che l'Atletico si carichi troppo, questo è l'unico, però io ho dato pubblicamente 55-45 per il Barça, non so Pier come la vedi. Io darei anche 60-40, però siamo lì, siamo oggettivamente lì, non lo so, mi sembra che ci sia in tante sensazioni, tanti commenti, l'idea che l'Atletico passi perché c'è per inerzia, di due anni fa, per inerzia. Secondo me il Barcellona è favorito, nonostante tutto è favorito, però certo è una partita a rischio, perché ripeto, io penso che l'Atletico si metterà lì, non farà la partita da under, lo dice uno che becca la scommessa al 78, però secondo me è una partita da under, da meno di tre gol, con l'Atletico che aspetta, nonostante teoricamente debba attaccare, e cercherà secondo me nell'ultima mezz'ora di andare sullo 0-0. Difenderà la sconfitta, difenderà... Lo 0-0 fino esatto, a quando vorrà, e poi dopo proverà a fare il colpo. Questa è un po' la... Ti manca Torres che... stranamente era in forma strepitosa, perché no, noi l'abbiamo ricordato tante volte, ha fatto 19 partite per segnare, adesso era in gran forma, segnava tre partite, mentre al contrario giocherà Suarez, che secondo me poi alla fine è l'uomo chiave del Barcellona, perché e no, secondo me non va a giocare perché deve essere espulso, però insomma ci sarà, e secondo me quella è un po' alla fine si gioca lì la partita, perché l'uomo anche più cattivo che hanno in una partita così spigolosa, alla fine Suarez è quello che fa la differenza, secondo me. Certo, c'è un simpatico ragazzi... Cagnetto fra me e Ricci, che è passato adesso. Cagnetto. Ragazzi, vi saluto, vi mando a pranzo. Ci sentiamo domani. Tra l'altro domani nuova esterna Salone del Mobile a Milano. Le grandi esterne di Radio 24. Allora, saluto Pierluigi Pardo, Filippo Maria Ricci, ci fermiamo per la borsa e poi Alberto Malesani qui con noi. Cazzo, guardi. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Si ricomincia. Convocati. Vinitaly, grande firme, ieri è passato a trovarci Francesco Moser, oggi qui davanti a me Alberto Malesani, che saluto e ringrazio. Grazie. Ciao, grazie a voi dell'invito. E c'è Andrea D'Amico, che credo tu conosca abbastanza bene, che sì, ieri veronese era doc. Veronese doc, e che ieri era pure qui con noi. Grande agente. Grandissimo. Ciao Alberto, ciao Carlo, che piacere. Ciao, ciao Andrea. Ciao. Infatti D'Amico alla mia procura lo sanno tutti. Beh, l'abbiamo siglata anche ieri sera. L'abbiamo siglata anche ieri sera. Sì, anche ieri sera tardi. Mi fai chiedere ad Alberto Malesani che vino produce, e soprattutto la Giuva è la tua etichetta, la tua azienda. Che cosa vuol dire? Allora, è proprio un'etichetta di famiglia, perché il vino come nel calcio, l'allenatore si può fare in mille modi, anche il vino si può fare in mille modi. E io ho fatto una scelta silenziosa, diciamo, è nata nel 2003, una scelta di famiglia, di investire un po' su quello che è la natura, perché alla fine poi è la natura, facendolo vicino a casa mia, pensando alla mia famiglia, alle mie figlie. A pochi chilometri da qui. Sì, è una zona abbastanza della Valpolicella, abbastanza sconosciuta, diciamo, e di più perché l'alta Valpantena si avvicina molto di più ai monti della Lissinia. Ho fatto una scelta di territorio proprio perché volevo valorizzare la zona dove sono nato, e soprattutto io ho uno spirito un po' anche nazionalistico, nel senso perché mi piace molto che il mio paese vada bene ed è il più bel paese del mondo, perché dopo aver viaggiato tanto, quando rientro in Italia, sì, per me è il più bel paese del mondo, nonostante siamo maltrattati anche fra virgolette, e anche abbandonati un po'. Paese difficile anche da capire per chi non è di queste parti. Esatto, e ho fatto una scelta proprio così, di territorio, di famiglia, e nel nome laggiù c'è proprio tutto questo, perché Giulia e Valentina sono le mie figlie, è un acronimo che mette insieme le mie figlie, poi ne è risultato anche UVA alla fine, certo, che diciamo quell'A ho dovuto metterlo perché per registrare il marchio mi veniva fuori quello che c'ha, si occupava dei marchi, sì, mettendo giù e basta veniva sempre fuori la moglie di D'Alema. No, vi dico questo particolare qua perché è proprio di oggi questo particolare qua, e allora ho dovuto aggiungere la sì, giuva, altrimenti sì, sì. Altrimenti devo fare la moglie di D'Alema. Ma guarda caso, oggi, stamattina, davanti al mio stand, il mio piccolo stand 2x2, si presenta una bella signora che si blocca e guarda e dice giuva fa, e io subito mi è venuto, siccome ho saputo che anche D'Alema produce vino, uh-huh, ho detto ma mi scusi, ma lei per caso è la moglie di D'Alema? Gli ho detto, e ho confermato. Quindi ho spiegato tutto a lei, perché tutto sto casino. Storie di Vinitaly, Andrea. È carina anche. È una bella, e gli ho regalato una bottiglia, ha detto che la conserverà, e ha detto speriamo che vi porti bene, eccetera, insomma. Sei andato a trovarlo, Alberto, Andrea? Certo, sono andato a salutarlo ieri, tanto più che ero da un altro caro amico che produce il vino, di fronte a lui mi dice, ma pensa a Malesanico originale, mi fa, che nome strano che ha messo sua figlia, gli ha messo nome Giuva, gli ho detto scusa, basta bere tu, perché Giuva è la sintesi è la famiglia, Andrea. Esatto. Al sono io, Alberto al contrario, esatto, Giuva. Esatto. Manca mia moglie, perché mia moglie non gli piace tanto il vino. Davvero? L'abbiamo esclusa. Però posso dire, Alberto ha detto una cosa importantissima, le radici. Allora, una pianta che perde le proprie radici ovviamente muore. Ed è bellissimo andare in giro per il mondo, ognuno con i propri problemi, le proprie soddisfazioni, e tornare dove comunque hai le tue radici, dove hai quei sentimenti, quei ricordi che ti fanno apprezzare poi tutto quel resto che fai nella vita. E dico una cosa per non scadere nel bieco sentimentalismo a livello economico, visto che siamo su Radio 24. L'Italia è veramente il paese più bello del mondo, e secondo me chiunque entra in Italia dovrebbe pagare un visto, un ticket per poter girare questo museo a cielo aperto che unisce arte, bellezze naturali, cultura, vino, e il vino vuol dire tante altre cose. Quindi penso che noi, che tante volte andiamo in giro per il mondo e vediamo che gli altri paesi magari possono essere meglio organizzati del nostro, più efficienti, ma non hanno la ricchezza di storia e di cultura che abbiamo noi, le bellezze naturali così vicine, perché ad esempio la Valpolicella è un posto fantastico dove in un quarto d'ora sei sul lago di Garda, in un quarto d'ora sei a Verona nel centro della cultura, e vai a sciare in due ore sulle Dolomiti che tutto il mondo ci invidia. Ecco, noi dovremmo, secondo me, valorizzare meglio la nostra nazione. Perché ma anche abbiamo in Lessinia si scia, Andrea. Anche in Lessinia. Ogni tanto. Alberto, ma aspetti di tornare dalla vigna alla panchina? Ma sai, io non sono, Andrea è di Verona, sa che io non sono uno che, io vado da chi mi prende, non è che sono quello che, diciamo, fra il politico, quello che ha tenuto rapporti particolari col mondo del calcio, e magari ho più difficoltà di altri. Io qualche richiesta dall'estero l'ho avuta, in Italia diciamo quasi nessuna, ecco. E però ti senti prestato alla vigna? No, infatti, e magari tanti pensano, in realtà la vigna è una cosa di famiglia, è che sì, esula dall'aspetto calcistico, e un po' di delusione c'è stata vedendo che comunque quello che hai fatto comunque è che nel momento in cui i risultati non ti danno tanto a ragione si dimenticano in fretta, ecco. Sì, sì, sì. Però, ripeto, all'estero godo di più di stima maggiore, forse il fatto di aver vinto anche prestigiosi trofei, eccetera, si ricordano più. In Italia la memoria è più corta. Poi l'Italia adesso è diventato un mercato un po' più difficile. Però niente, io come tutte le, io aspetto, poi vediamo insomma cosa succederà. Ma Alberto ha entusiasmo, quindi sicuramente era il momento giusto. Come è arrivato Ferrati, è un turnover a volte più corto, a volte più lungo, però nessuno si può affrancare da questo turnover. Non si sono affrancati nemmeno grandi allenatori come Capello, come lo stesso Lippi, Ancelotti. Quindi si tratta di aspettare il momento giusto, il progetto giusto. Senti Andrea, ieri avevamo aggiornato l'appuntamento perché io volevo chiederti di un altro allenatore che sta aspettando, che è Walter Mazzarri, di cui si è fatto il nome anche per la nazionale. Ovviamente lui non si è più fatto sentire, sappiamo che è andato a studiare in Inghilterra, sappiamo dov'è, cosa fa, ma non abbiamo, per ragioni contrattuali, non abbiamo più sentito. Allora, Mazzarri e la nazionale, visto che sei particolarmente vicino a Walter Mazzarri. Ma guarda, Carlo, allora la nazionale, stranamente, Alberto parlava di cose strane, finora non si è mai fatto sentire a livello di interessamenti. Questa mi sembra una cosa molto strana, perché se vai a vedere quelli che sono gli allenatori liberi sul mercato da contratti e che possono avere esperienza, carisma, insomma un curriculum di assoluto prestigio, Walter mi sembra uno di quelli che più di altri possa comunque meritare questa, se non altro, questa chiamata. Poi dopo la chiamata si può riflettere, si può dire di sì, si può dire di no, però comunque, mettendomi in una posizione neutra per un secondo, mi sembra incredibile questa cosa. E la seconda considerazione, la seconda cosa che ti volevo dire, siccome, voglio dire, attorno al silenzio di Walter tanti colleghi tuoi hanno sempre detto: ma perché non parla? Ma lui non parla perché comunque, come diceva Alberto, è un altro uomo del fare. Lui preferisce fare, ha sempre fatto, ovunque è andato ha dimostrato con i fatti che l'allenatore come lui può non essere una spesa, so, ma un grande investimento in questo mondo convenga, un grande investimento. C'è anche comunque un contratto che lui ha essere con l'Inter, e sai che comunque quando ci sono dei rapporti formali, contrattuali, poi dopo è molto facile entrare in carriera giudiziaria o meno. Quindi certo. Lui poi ha voglia di trovare concretezza in un progetto interessante nuovo dove l'area geografica non conta, ma conta appunto la qualità del progetto, e quindi si è preso questo tempo per aggiornare le sue conoscenze calcistiche, approfondire le lingue. Penso che sia comunque, ecco, questa è la spiegazione del fatto che ti dicono: ma come mai non parla? Cosa deve dire? Non deve mica autopromuoversi. Quello che è Mazzarri lo conoscono tutti per quello che lui ha fatto, per quello che lui ha gestito. Se non vogliamo ricordare la parentesi dell'Inter, dove comunque i numeri e i confronti sono oggettivi, ricordiamo il grande sogno che ha fatto a Napoli. Ci fermiamo un istante per il traffico, poi torniamo a 800 24 00 24. Se volete intervenire, siamo qui. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, torniamo in diretta da Vinitaly, con me Alberto Malesani, che di nuovo ringrazio, Andrea D'Amico collegato con noi, messaggi che leggo come questo: ma quale Mazzarri che ne dite di Malesani in nazionale? Saluti ad Alberto, il popolo viola lo ricorda sempre. Raffaele da Pistoia, questo scrive questo. Senti, Alberto, qual è il vino che ti riesce meglio e qual è la squadra che ti è riuscita meglio? Beh, partiamo da Firenze subito, prima del vino. Credo che Firenze rimanga la squadra nella quale ci siamo divertiti di più. Sì. Perché lì veramente è riuscito un calcio che difficilmente forse quel primo Chievo, quando siamo andati quasi dalla C alla B, quasi in Serie A, abbiamo raggiunto dei livelli buoni, però a Firenze, insieme a quel Parma che ha vinto tanto, diciamo che il divertimento è assicurato. L'ultima maledetta Coppa UEFA che non riusciamo più a vincere a Levita, tu. Ma finché non mi danno una squadra a me, saranno condannati a... Capito, l'amico? No, ma per quanto ragione, riguarda... No. Guarda, posso fare un parallelismo vitivinicolo? Se tu prendi anche un'area geografica determinata dove il vino è eccellente, però ti danno il campo sbagliato, alla fine il vino è sbagliato. Cioè, se tu vai in Valpolicella e invece di darti un bel pendio in discesa esposto al sole ti danno e ti vendono un campo in piano, il risultato è diverso. Quindi anche l'allenatore, per quanto bravo possa essere ad ottimizzare le capacità tecniche, la tattica della squadra, la gestione mentale, se non ha un progetto valido, parlavamo anche ieri del Milan, cioè alla fine non è che può fare i miracoli. No, la competizione, io credo di avere esperienza, perché non solo con il Parma, ma anche tipo la Fiorentina, ma anche altre squadre, tipo il Genova nel 2011, io avevo promesso al presidente Preziosi che gli avrei dato questa soddisfazione. Io sono stato esonerato, perché queste sono cose che non capisco ancora perché, dopo 15 partite, 21 punti e due turni di Coppa Italia passati. Dovevamo incontrare l'Inter, che era l'Inter di... lì si andava quasi ai quarti, gli avevo promesso che si poteva puntare alla Coppa UEFA. La partita, le coppe, è tutta un'altra cosa. Finché non ragioniamo in questa maniera, se tu fai gestione e tu non vincerai mai una coppa. Se tu invece, a meno che non sei il Barcellona, ma se tu guardi anche Barcellona, quando è ora di Champions League, gioca la squadra migliore. Certo. Non è che stanno lì come da noi, in turnover. Ma è fastidio da morire che in Italia si affronti l'Europa League come se fosse qualcosa di fastidioso. Esattamente. E allora non puoi dopo piangerti addosso. Seconda cosa, bisogna essere capaci di... è diverso campionato da dove c'è più conoscenza, c'è più tra le squadre, ma i giocatori stessi che si affrontano dopo tanti anni si conoscono. Nelle coppe invece diventa più difficile, perché devi essere molto attento nel preparare una partita singola. Certo. Non è che dopo ti puoi rifare, e lì ci vuole un po' più di abilità dal punto di vista tecnico tattico. Ecco, quindi qua ci sono anche gli specialisti, dico, di queste cose qua, veramente è sì, così. Sì, no, ma non ho dubbi, è come dubbi, tutte le cose. Io credo che lì, se vai a vedere tutto il mio risultato di tutti gli anni che ho fatto, ho fatto dei grandi risultati, forse di più di campionati. Ho vinto col Chievo, sono andato a vincere vicino a vincere col Parma, ma però nelle coppe invece ho fatto di grandi risultati, ecco. Senti, un'ultima cosa per tutti e due, parliamo di giocatori. Ad Amico chiedo perché Giovinco non viene preso in considerazione dalla nazionale. Ma probabilmente perché Conte lo conosce così bene che non ha bisogno di convocarlo per le amichevoli. Questa mi sembra una risposta razionale. Ma quindi secondo te andrà agli europei? Beh, io penso di sì, però dopo in realtà è difficile fare pronostici così distanti nel tempo, perché ci sono tante variabili, la condizione fisica, come sta uno, però secondo me mi sembra che stia benissimo, cioè, anche se un po' lontano, mi sembra stia benissimo. Non c'è nessun altro giocatore che abbia le sue qualità. Alberto poi l'ha avuto, l'ha allenato anche a Empoli nella sua prima stagione in Serie A, insieme a altri giocatori che sono diventati poi importanti, come Marchisio, come Abate, e quindi li ha avuti lui fin da allora. Mi ricordo che mi diceva Andrea, delle qualità veramente incredibili questo ragazzo, aveva fatto un gol alla Roma impressionante. Sì, ma i piedi fatati li ha sempre avuti. Andrea, ti ringrazio. Grazie a voi. Ci sentiamo prestissimo. Ciao, ci sentiamo prestissimo. Ciao Andrea. Ci sentiamo prestissimo. E ultimo minuto, chiedo ad Alberto Malesani invece il giocatore che più gli è rimasto nel cuore tra quelli che ha allenato, se ce n'è uno. Ma dovrei distinguerli per ruolo, perché ne ho avuto talmente tanti di bravi. Allora, diciamo uno che adesso ha ricevuto quello, giustamente, gli applausi da parte di tutto il mondo del calcio, è stato Gigi Buffon. Gigi è il giocatore che ti fa fare la differenza. Quando lui dice la porta è chiusa, tu vinci sicuramente. Quindi Gigi è stato il più grande portiere, credo, di tutti i tempi. Poi come difensori ne ho avuti tanti di bravi, tra cui Fabio Cannavaro, Onesto Sensini, però quello al quale probabilmente mi sento più legato, ma per tipologia, perché abbiamo discusso tanto insieme ogni fine allenamento, è Lilian Thuram. Poi centrocampisti diciamo ne ho avuto tantissimi anche lì, quello forse quello più giusto, quello in generale, al di là di Alain Bogossian, che è stato un grande tattico, dico Sebastian Veron e Rui Costa, ecco, fra i centrocampisti. E magari tra gli attaccanti Battistuta. E fra gli attaccanti Battistuta, perché è il giocatore che vorrebbe ogni allenatore, cioè è il classico giocatore che vuole bene all'allenatore, al di là poi dopo, sì, che ti fa fare, però lui si attacca e lui difende la propria squadra, il proprio allenatore, è di quelli cui ne ho avuti tantissimi, certo, anche lì, però, e mi scuso con quelli che non nomino. Chiaro, metteresti in mano, ecco, questi sono i giocatori. Il pallone decisivo. Alberto, grazie. Grazie a voi. Grazie Alberto Malesani, ci sentiamo presto. Noi ci dobbiamo fermare, cioè ci fermiamo per il giornale radio e poi torniamo con molte altre cose. 800 24 00 24, chiamateci. Finisce qua, senza recupero il primo tempo. Gran spettacolo. Tutti convocati. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Convocati. Beh, no, meraviglioso, in Italia è meraviglioso perché c'è una magia, no? Improvvisamente mi si è riempito lo studio. Matteo, buongiorno. Matteo è un ascoltatore. Matteo? Alessandro da Napoli, buongiorno. Sì, buongiorno. No, vorrei prima di tutto ringraziare Alberto Malesani, grandissimo. Poi volevo parlare di Mazzarri, perché secondo me Mazzarri, cioè già come allenatore, ma è abbastanza insopportabile quando si vince, quando si perde diventa praticamente proprio un allenatore fuori luogo, anche perché con le sue dichiarazioni tutto pregio l'arco difetti, della insomma, pregio di che Napoli ha fatto delle stagioni meravigliose. Poi anch'io penso che sul piano della comunicazione non sia il massimo della vita, almeno è uno stile che a me non piace, quello di così trovare qualche volta delle scuse, di trovare qualche ragione per spiegare i motivi degli insuccessi. E è anche un modo per creare alibi alla squadra, e non è necessario farlo, ma ne parlavamo anche nei giorni scorsi a proposito di altri allenatori. Quindi è un atteggiamento così, ma ognuno è fatto a modo suo. Invece è arrivato, attenzione, Sinisa Mihajlovic, qui nel nostro studio. Sinisa, ma perché ti hanno cacciato? La cosa mi è risulta impossibile da capire, perché dicevano che non arrivavo a mangiare il panettone con i pistacchi, mi dicevano che bisogna stappare la gassosa, ma io non ho la bacchetta magica di Harry Potter, che lo posso sapere. Comunque non ho risentito assolutamente di questa cosa, sono un uomo felice. Perché non si direbbe, posso dire. Io sono felice perché so che ho fatto tutto quello che bisognava fare, a me non interessa altro. Ho fatto bene, poi dopo. Se uno non capisce che senza la bacchetta magica uno non può arrivare a mangiare il panettone, tu mangi il panettone con pistacchi. Sì, a te sì, piace sì, sicuramente. Sì, sì. Io adesso vedo, ma mi sembra strano perché qua siamo in Italia, qua vedo tutto pieno di caffè. Una cosa mi sembra un po'. E questo è Andro Mercù, naturalmente. Eccoci. Allora, Andro Mercù, che adesso Italy, con che la sua vera, sì, autentica voce. Questa è la mia, eh? Questa è la sua. Non la conosco neppure io, quindi non lo so. Io vorrei che Andro Mercù ci presentasse. Sì. gli ospiti che abbiamo preso. Ah, che meraviglia, per me è una grandissima gioia, perché posso dirlo, cioè, allora, Cristian Specogna, che è mio carissimo amico, visto che parliamo di Vinitaly, lui di vini se ne intende, buoni, posso dirlo, il mio winemaker preferito in assoluto, lui produce vini sui Colli Orientali, per la precisione, nel comune di Corno di Rosazzo, esatto. Rocca Bernarda. Chiunque avesse la possibilità di visitare questo meraviglioso territorio che è il Friuli Venezia Giulia tutto, però nella fattispecie andate Rocca a trovare Bernarda, nome Cruciani, Cruciani farebbe delle puntate intere. Ma devo dire che Giuseppe non ama troppo il vino, o meglio, lui preferisce altre cose, i salumi per esempio. Esempio, ma il vino, a dir la verità, non è che faccia i salti mortali, però un giorno magari ci porre, chissà che non, tu non riesca a convertirlo. Salto Cristian, grazie di esserci venuto a trovare. Grazie a voi dell'invito, anzi per me è un grande piacere. Per squadra fai il tifo? Io, beh, udinese ovviamente, da buon friulano non potrei dire altrimenti. No, poi dire. Devo dire la verità, che insieme ad Andro ho una passione che spesso ci fa soffrire, ma che portiamo avanti sempre con grande passione e cuore, che è quella per l'Inter. Devo dire la verità. Ora avete capito tutto. Ho già detto tutto, quindi. Guarda, cosa... che Carlo è milanista. Io tifavo Ibrahimovic, ci hanno fatto fuori. No, poi quando le cose vanno male, affogate con Ramato. Infatti, proprio nei momenti di sofferenza, quando non vanno come speriamo le cose, tiriamo fuori gli assi dalla manica. E poi il caffè? Ma tu hai assaggiato invece il Sauvignon mamma mia, il Sauvignon, che meraviglia. Assaggiato. Vabbè, insomma, io e te la sappiamo questa storia. Invece, straordinariamente, è curioso vedere che oltre a grandi winemaker come Cristian Specogna ci siano due amici che invece ci fanno assaggiare dei caffè che sono meravigliosi, Francesco Donati e Giona Donadon, che ci fanno assaggiare delle cose incredibili, Sì, effettivamente. Mi fa giustamente Giorgio De Luca, mi dice Andro, live. Sì, cioè, non è che siano cose registrate. Noi facciamo il Hic et Nunc. In questo momento ci sono qua le cialde di caffè e vorremmo sentire da Francesco e da Giona cosa ci proponete. Noi abbiamo inventato qualcosa di straordinario. Qualcuno l'ha definita la notizia del Vinitaly, perché noi abbiamo coniugato il caffè con le vinacce. Ah, ecco, lo vedi qual è la... C'è un perché. In questo caso vi abbiamo portato qua in studio il caffè con le vinacce di Cabernet e il caffè con le vinacce di Chardonnay. Sono dei prodotti che abbiamo brevettato noi, quindi siamo gli unici al mondo a fare. Non fateci caso, sono ragazzi, bravi ragazzi, ma appunto vivono delle cose. Sì, no, tu continua tranquillo, Francesco. Ogni tanto 2 ore per notte le dormiamo anche noi. Quindi... Allora l'ambulanza, chiama per favore, l'ambulanza, grazie. Sì? E questi caffè che tu hai già avuto modo di assaggiare, quindi certo. Tu sei il primo testimonial della qualità di questi caffè, sono unici al mondo proprio per questa caratteristica. E sono dei caffè molto esclusivi. Ricordiamoci che è un caffè a tutti gli effetti. Non è alcolico, non è un caffè corretto. Se non è alcolico, allora mi dispiace. Ma non... Però puoi sempre mettercelo un goccetto. Possiamo assaggiarne uno? Associatemi il caffè... di Chardonnay e di Cabernet a un giocatore, a uno sportivo. A un giocatore, a uno sportivo? A uno sportivo. Beh, a uno sport mi verrebbe da dire la vela, perché la vela, insomma, io sono un velista, non sono friulano, ma siamo molto vicino al Friuli, quindi nel Golfo di Trieste abbiamo fatto tante regate veliche. Anche. Esatto, e quindi so che è un ambiente in cui... diciamo i prodotti un pochettino così, le chicche piacciono molto. Quindi... Beh, Trieste è una fucina di grandissimi campioni, e non soltanto, ma la regione Friuli Venezia Giulia è piccola, ma di campioni grandi ce ne sono. Allora, sì. adesso assaggiamo il caffè. Vi piace il basket? E come? A me tantissimo. Sai cosa succede stanotte? Stanotte? All-Star Game? No. succede in America, succede questo. Secondi allo scadere dei 24, Kobe finalmente la grandezza di un giocatore straordinario. devi lavorare ogni giorno, devi, quando ti svegli la mattina devi fare lavoro ogni giorno come può essere il tuo l'ultimo giorno di vivere. Questa mentalità che ho preso quando ho cambiato il numero al 24. E dunque l'ultima notte, l'ultimo ballo, The Last Dance di Kobe Bryant contro gli Utah Jazz. Ciao Davide Pessina. Buongiorno. Serve tanto caffè, eh? Eh sì, abbastanza, però ne vale la pena. Sì, questa notte, tra l'altro, non solo l'ultimo ballo di Kobe, ma Golden State che va per il record assoluto ogni epoca di vittorie in stagione regolare, eguagliato quello delle 73 vittorie di una squadra epocale come 72 vittorie come squadra epocale, quella di Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, Phil Jackson, eccetera eccetera, e questa notte si va contro Memphis per il record assoluto. Secondo te è reale, è un risultato reale o un falso storico accostare questa squadra a quella, Davide? È difficile, paragonare ere diverse è veramente complicato, poi va molto di generazione in generazione, nel senso che per la mia generazione quei Chicago Bulls erano una cosa mai vista prima, dicevi tu Jordan, Pippen, io ti metto Pukoc, insomma certo. Una squadra incredibile, poi ha finito vincendo il titolo, che era il primo di tre consecutivi della secondo terzetto, per cui anche quello può contare molto, vedere se poi Golden State alla fine riuscirà a vincere il titolo quest'anno, non sarà così semplice, immagino che per i ragazzi, diciamo, giovani adesso questa sarà la squadra di riferimento. Comunque paragonarle è difficile, però vincerne 72-73 nel basket di oggi è uno sproposito, è veramente impensabile. C'è Simone Sandri da New York, ciao Simone. Buongiorno, buon pomeriggio Carlo, buon pomeriggio Davide anche. Ciao, senti, l'America come si appresta a vivere questa ultima notte, ultimo ballo di Kobe e questa caccia al record di Golden State? Sì, esatto, fino a un paio di mesi fa sul calendario c'era scritto solo Kobe Day, era questo che doveva essere il send-off di questa carriera straordinaria, doveva essere la giornata ovviamente dedicata a lui e gli occhi di tutta l'NBA e di tutto lo sport americano su Kobe. Invece i Warriors, dopo aver rubato un po' la scena da quei Bulls straordinari di cui parlava Davide, adesso stanno rubando anche la scena al Kobe Day, perché per esempio la ESPN ha spostato la partita di Kobe da ESPN 1 a ESPN 2 su network di secondo piano, se vogliamo, e su ESPN, sul suo network principale, ci sarà la partita di Golden State, per cui passa non certo in secondo piano, perché è la fine di un'era, è il send-off di uno dei più grandi, ovviamente di uno dei più grandi giocatori di sempre di questo sport, però è abbastanza curioso il fatto che nella stessa serata ci sarà forse il record più straordinario della storia dell'NBA e nello stesso modo uno dei giocatori più grandi di sempre che se ne va. Senti Davide, guarda la curiosità dello sport, la bellezza dello sport, l'ultima di Kobe contro gli Utah Jazz, cioè la squadra contro la quale Michael Jordan ha vinto l'ultimo anello, l'ultimo titolo, quello della palla rubata a Malone e di quel canestro che, vabbè, è un'icona, no? Esatto. Quel canestro in faccia a Brian Russell, va da una parte, torna indietro. E quel braccio lasciato alto, e tutti sapevano, tutto il mondo sapeva che quella palla sarebbe entrata. Diciamo che se c'è qualcuno che può essere in qualche modo paragonato per stile di gioco, per titoli, per ossessione, per voglia di vincere, a Michael Jordan, in effetti Kobe Bryant. Non è Michael Jordan, è diverso, non è stato probabilmente allo stesso livello, però è l'unico che si può avvicinare per certi versi, e davvero questa è una delle ossessioni di Kobe. La parola ossessione ritorna tante volte, sì, nella vita e nella carriera di Kobe, perché era davvero un ossessionato dal successo, da essere il numero uno, dal vincere, e tanta ossessione era dovuta al fatto che voleva essere come Michael Jordan. Sì, non ci è riuscito però, non è arrivato, non può esistere un altro Michael Jordan, però Kobe Bryant è quello che forse si è più avvicinato di tutti. Senti Davide, un'ultima cosa, gli appuntamenti televisivi quali sono? Oggi sta andando su Sky Sport 3 partite vecchie, Kobe Day, per cui tante partite vecchie, non so, lo Star Game del 2000, altre partite, le finali, che ci accompagneranno fino alle 4:30, dove in diretta con Flavio Tranquillo commenteremo appunto la partita di addio di Kobe Bryant, e poi da sabato sera in diretta, credo alle 9:30, però non c'è ancora bene il diciamo il programma completo, cominciano i playoff e si comincia a far sul serio. Certo, Grazie Davide, buon lavoro. Grazie a voi, ciao, ciao, ciao. Grazie Davide Pessina. Simone Sandri invece, tutta l'America guarderà l'ultima partita di Kobe. No, ma sai, mi è venuto in mente nei giorni scorsi un parallelo un po' amaro, perché tutta l'America ha tributato l'ultimo saluto a Kobe, file interminabili davanti a tutti i palazzetti in cui Kobe giocava per l'ultima volta, eccetera. Poi vedi il derby di Roma, dove c'è da salutare magari Francesco Totti e non c'è nessuno. Sì, facciamo, in America si dice facciamo un paragone tra arance e tra Apple e Roma. Certo che se vogliamo fare il paragone, diciamo, tra la cultura sportiva americana e la nostra, è ovvio che siamo un po' siamo abbastanza indietro da questo punto di vista. Ma io ricordo sempre a tutti quelli che magari vengono dall'Italia per la prima volta a vedere le finali NBA, che durante le finali NBA, durante i time out spesso ci sono tributi per grandi giocatori del passato che non hanno necessariamente giocato in quella squadra, eppure ci sono applausi scoscianti, nessuno si sogna neanche mai di festeggiare. È un altro mondo. Kobe stesso, è un po' un paradosso che Kobe stesso, che questo tributo sia stato fatto per Kobe, perché è uno dei giocatori che non è mai stato simpatico al pubblico che non fosse quello dei Lakers, per cui se Michael Jordan a un certo punto di vista un po' più trascendeva il basket, Kobe, anche per il tipo di carattere, non è stato mai diciamo follemente amato dalla squadra rivale. Vedere questo farewell tour nel quale a Kobe si tributano questi grandissimi attestati di stima è bello ed è veramente la dice lunga sulla cultura della sportiva americana, non c'è nessun dubbio. Playoff come li vedi? Sei d'accordo con Pessina quando dice che per la Golden State dei mille record non sarà semplice portarsi a casa il secondo anello consecutivo? Sì, non sarà semplice, perché sono d'accordo con Davide, quei Bulls, i Bulls leggendari del 96, nel 95-96 avevano praticamente prenotato il titolo, era una conseguenza che avrebbero vinto il titolo. Quando sono partiti i playoff erano tutti sicuri che questi Bulls avrebbero vinto il titolo. Questi Wolves la devono giocare perché comunque hanno ad ovest hanno la sfida con San Antonio, salvo ovviamente clamorosi sgambetti di qualcuno, è assolutamente inaspettati. Ci sarà questa sfida comunque complicata, perché in una serie Popovic è un mago nel leggere comunque le partite, per cui è una serie che se la devono giocare sicuramente non è scontata. E poi comunque la finale, se Cleveland come sembra attualmente dovesse andare in finale, comunque i Warriors sarebbero favoriti, ma io scommetto contro LeBron non è mai una bella cosa, per cui comunque se la devono giocare. Di sicuro non sarà semplicissimo per i Warriors vincere il titolo, questo è poco ma sicuro. Grazie Simone, grazie, buon lavoro a te a New York. Allora, io ringrazio tutti qui presenti e soprattutto faccio gli auguri di compleanno a Cristian Specogna, compie gli anni oggi. Oggi proprio. Quanti? 29, 29 annate, venendo dal vino la dico sempre così. No, naturalmente. Offre da bere, naturalmente. Ovvio, vi aspetto tutti da noi, un buon piccolito è già in fresco e quindi non potete mancare. Io ringrazio anche Andro Mercù, grazie, anche ciao. I signori del grazie caffè. A voi e un grazie anche a chi ci ha permesso di essere qui, ospitati nel padiglione del Veneto, nello stand della regione, quindi grazie a Luca Zaia che ha creduto in questa startup e ci ha dato questa finestra per farci conoscere il mondo. Grazie mille, io adesso devo parlare con gli ascoltatori che sono Nicola e Maurizio. Io partirei da Maurizio, provincia di Udine. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Grande buongiorno. Intenditore di vino, grande intenditore di sport, grazie alla vostra splendida trasmissione. Ho colto grazie. L'occasione per fare gli auguri al caro amico Cristian per il suo compleanno, grazie. E quindi oltre al piccolito dovete farvi assaggiare anche l'oltre, che è uno dei li assaggiamo tutti. Dove va l'Udinese? L'Udinese sta andando benissimo, dipende un po' dai punti di vista, comunque il cuore friulano alla fine farà il suo ruolo e quindi noi siamo molto speranzosi di ben figurare. E comunque affino le mie conoscenze sportive grazie alla vostra trasmissione. Grazie Maurizio. Per questo vi ascolto ogni giorno e rinnovo i miei auguri all'amico Chris. Grazie. Ciao, grazie. Nicola, buongiorno. Nicola, provincia di Chieti, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Ascolti, dica. vorrei fare una domanda sperando che in voi trova quella esaustiva. Il Catania è stato retrocesso in Serie C per lo scandalo delle scommesse. Le squadre che hanno venduto, tra virgolette, le partite al Catania, quando è che verranno penalizzate? Non lo so quando verranno penalizzate, Nicola, non so neanche dove possiamo o vogliamo arrivare con questi discorsi. Io possiamo aggiornare la seduta, così su due piedi non le so dare una risposta a una domanda che mi sembra un po' tendenziosa. Voglio farvi sentire invece due voci. Una è di De Laurentiis, che ho già parlato, tra le altre cose, del futuro di Higuain. E io non ho ricevuto nessuna offerta per Higuain, quindi fino a prova contraria Higuain rimane con noi. Poi se ci saranno delle offerte le valuteremo, tu lo sai che c'è una clausola rescissoria e quindi non mi sembra che sia oggetto di discussione, è chiaro, no? Poi dipende anche molto da come termineremo questo campionato, perché ovviamente i giocatori vogliono anche giocare le competizioni. Beh, non mi sembra che chiuda del tutto la porta all'idea di una ipotesi, guardate come la prendo larga, di cessione di Higuain. Quindi dice: non va via, rimane qui, per carità, però se arriva uno e bussa, magari le miro e bussa e mi porta tutti i soldoni che servono, allora magari forse Higuain potrei anche pensare eventualmente di cederlo. Cosa ha detto Galliani? Brocchi, la persona che secondo AC Milan può dare una scossa e può fare migliorare il gioco di questa squadra, e quindi abbiamo affidato la panchina appunto quindi a Brocchi. Quindi certamente, voglio dire, il Sinisia ha fatto un buon lavoro, ne abbiamo dato atto, ha ottenuto buoni risultati, siamo in finale di Coppa Italia. Siamo sesti in questo momento in campionato, ma abbiamo pensato che servisse dare in questo momento un qualche cosa di diverso, da qui la scelta su Christian Brocchi. E anche sui giri di parole Galliani non si lascia mancare niente. Ora di salutare tutta la compagnia qui a Vinitaly, domani Salone del Mobile a Milano, ci vediamo lì in diretta dalle Cucina Lube, ci vediamo lì in diretta dalle 14:30 con tutti i convocati. Io saluto tutta la squadra di Radio 24, tutti quelli che sono a Milano, Giorgio De Luca, il nostro autore qui con me, Filippo Aureggi in regia, Nicola Cioccia, insomma, tutti quanti, e ci vediamo qui a Vinitaly l'anno prossimo. Ciao ragazzi! Guaglio! Buon pomeriggio a tutti!